24 mattino. Rieccoci, Luca Telese, Alberto Castelvecchi, 349-238-6666 per i vostri messaggi e poi più tardi arriveranno le telefonate. Partiamo dall'In Excess. Allora, il volo d'uccello sui titoli dei giornali. Corriere della Sera, l'apertura tecnicamente sulla Germania, Merkel pronta a cambiare ma decido io, governo difficile, lite nell'estrema destra. Ma il titolo dominante, taglio pagina, così truccavano i concorsi e li andremo. Il Sole 24 Ore, shock tedesco, cade l'euro. La Stampa, Berlino, eletti xenofobi e negazionisti. Libero, va sui professori, solo professori o anche ladri, sobrio. Repubblica, Merkel a rischio, la leadership dell'Unione Europea, con le ombre nere sulla Germania. Il giorno dopo il voto è già scissione fra gli ultranazionalisti. Frauke, Petri lascia il partito. La Verità, più soldi ai galeotti, meno ai malati. E poi il grande ritratto di Mario Giordano. Chi è Alice Weidel, la passionaria che ha fatto nera la Merkel? Il Messaggero sui concorsi. Concorsi truccati, retata di docenti. Il Fatto. Così ho incastrato la mafia dei baroni e dei concorsi universitari truccati. Vedete che apre formalmente su Agnelli, squalificato di un anno, ma punta sui concorsi. E poi Avvenire con un'apertura sull'Umbria e ovviamente la notizia della Germania. Però voglio partire dalla vicenda del concorso, perché il racconto nel pezzo di Fiorenza Sarzanini sembra veramente un film. Eccolo qua, Fiorenza Sarzanini, pagina 3. Non importa se sei bravo, questo è un do ut des ed è il titolo. Come funziona il sistema lo spiega il professor Pasquale Russo quando cerca di convincere Philippe La Roma Iezzi a ritirare la richiesta di abilitazione. Non è che si dice bravo, non è bravo, no, si fa questo è mio, questo è tuo, questo è tuo, questo è coso, questo deve andare avanti per cui. Il ricercatore non cede, il professore lo mette in guardia. Oh, così ti giochi la carriera. Invece, se accetti, ti facciamo scrivere un paio di articoli, così reimposti il tuo curriculum e vieni abilitato nella prossima tornata. Sembra ritenta, sarai più fortunato. Sono le intercettazioni, scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, ma anche le registrazioni dei colloqui effettuate proprio dalla Roma a svelare quello che i docenti definiscono il patto sui candidati da abilitare all'insegnamento di diritto tributario in tutta Italia. È il titolo necessario per essere poi scelti dalle università e dunque accedere alla spartizione delle cattedre a cui partecipa solo chi è indicato dai professori. L'indagine parte nel 2013. La Roma ha presentato domanda e viene convocato dal professor Pasquale Russo che gli chiede di ritirarsi. Scrive il giudice, l'interesse di Russo a che la Roma non partecipasse al concorso derivava dal fatto che la sua presenza all'abilitazione rendeva difficile abilitare certi candidati con meno titoli di lui. Russo lo dice chiaramente, i commissari si sono già riuniti un paio di volte, ognuno ha portato i suoi o dei suoi amici, ognuno ha chiesto e tutti hanno dato agli altri, insomma c'è stato un do ut des e quando il ricercatore si ribella il professore non si scompone, è il vile commercio dei posti, ti ritiri per mantenere integra la possibilità di farlo in un secondo momento. La Roma ricorre al TAR e presenta una denuncia alla Guardia di Finanza, loro non si scompongono, anzi il 14 gennaio 2014 durante un incontro con Russo il professor Guglielmo Franzoni gli dice: io non ho capito la tua scelta di restare dopo che ti è stato dato il messaggio di ritirarti. Cioè, se uno ti dà il messaggio di ritirarti, un motivo c'era. Cioè, una consapevolezza di come si è orientata la commissione. C'era il voto di Roberto Cordero Guerra, perché non voleva che tu passassi davanti a Dorigo, un altro ricercatore, hai capito? Ecco, queste sono le voci, questi sono i dialoghi, questa è la rabbia dei baroni che non volevano che il granello di sabbia imbloccasse il sistema delle nomine. E a questo sistema ha detto no questo ragazzo, questo ricercatore, come abbiamo già spiegato, era un diverso, forse rispetto anche alle convenienze, e Philip ha denunciato tutti sul fatto: sì, faccio l'inglese in Italia, voglio dire, chiedo il rispetto delle regole, e racconta com'è andata. Allora, sia sul fatto che sul Corriere della Sera c'è la sua voce, chiudiamo questa pagina con il racconto, l'uomo della denuncia, raccontando tutto, ho fatto la mia parte. Marco Gasperetti, il Corriere della Sera. Il ricercatore da cui tutto è iniziato si chiama Philip La Roma Iezzi, 49 anni, padre italiano, madre inglese, lavora al Dipartimento di Scienze Giuridiche all'Università di Firenze. È stato lui, con la sua denuncia e la sua registrazione effettuata col telefonino, a far scattare l'inchiesta. Professore, come va? Professore, non scherziamo, sono il resto un ricercatore, dunque un dottore. È a lui che hanno chiesto di ritirarsi da un concorso per diventare professore. Dottor La Roma Iezzi, tutto inizia a lei e sembra il classico vaso di Pandora. Crede che ci saranno sviluppi? Guardi, la ringrazio per il suo interessamento, ma oggi preferisco non parlare. Qualche suo collega dice che lei è stato molto coraggioso. Ho raccontato tutto a investigatori e magistrati, ho fornito anche le loro prove delle mie affermazioni e adesso mi voglio mettere a parte perché ho trovato persone straordinarie che stanno ancora lavorando e parlare mi sembrerebbe fargli un torto. Pochi mesi fa, un ricercatore di Pisa ha denunciato presunte irregolarità in un concorso. Conosce il caso? Sì. L'ho seguito sui giornali, anche se mi sembra diverso dalla mia inchiesta. Io ho fatto la mia parte, ho raccontato tutto a investigatori e magistrati e adesso preferisco non parlare, ma attendo. Smetti di fare l'inglese, fai l'italiano, perché se fai il ricorso, mi dicevano, ti giochi la carriera. Allora, Alberto, era un po' quello che avevamo detto, Alberto Castelvecchi qui con me, ma c'è qualcosa da aggiungere in più su questo UFO meraviglioso che rompe un sistema? Innanzitutto bisogna vedere se il sistema si romperà, perché in Italia, l'Italia è il paese delle inchieste, degli avvisi di garanzia, dei processi, pensa, manipolite la corruzione, e poi si è continuato per 30 anni più o meno nello stesso modo, è aumentata e non è diminuita la corruzione. E la cosa sconcertante è questo ricercatore 49enne, quindi un ragazzo per modo di dire, oggi può essere ricercatore a 49 anni, un tempo eri ordinario, che deve diventare un detective. Pensa a questo, che gli girano talmente tanto le balle che va agli incontri con questi professori un po' mafiosi e li registra col telefonino, la rivincita delle nuove tecnologie. Fantastico. Allora, sembri stupito, dove eravate voi giornalisti? No, guarda caro, hai mandato questo messaggio, noi scriviamo queste cose da 10 anni, leggiti i pezzi, non dico io, addirittura l'ho citato in un libro, il caso di Roma, la famiglia Frati che governava tutta quell'università, ma leggiti i pezzi di Stella, di Rizzo, che scrive oggi su Repubblica, noi abbiamo denunciato tantissimo, assolutamente e senza nessun tentennamento. Allora, questa lunga apertura sul caso, ma adesso entriamo nella vicenda tedesca, diamo subito un sapore con i cori, i festeggiamenti. Allora, cade l'euro, lo citavo come titolo ma è importante raccontarla questa conseguenza, rischio Germania, euro in calo, stiamo parlando del Sole 24 Ore, a pagina 5 Vito Lobs racconta che cosa sta accadendo, il rischio di un vuoto di potere in Germania dalle elezioni di domenica, il risultato che il blocco conservatore CSU sarà costretto a formare una coalizione, si è riflesso nel cambio euro-dollaro immediatamente, in una sola seduta la divisa unica ha perso una figura nei confronti del biglietto verde, scivolando a 1,185 rispetto al valore di 1,195 della vigilia. Quanto ai titoli di Stato della periferia, così come al Bund, hanno tenuto. Per le borse la chiusura è stata contrastata. Piazza Affari ha perso lo 0,63, mentre Francoforte ha chiuso sulla parità. Vedete, non è un terremoto, è una flessione, però è un dato molto importante perché anche le borse in questo momento sono un sismografo di quello che sta accadendo. Sapete che cosa determinerà il futuro di questa quotazione e il futuro dei mercati? Quanto tempo ci vorrà per fare un governo e quale accordo si troverà? Solo un attimo, una pausa, pubblicità e meteo e entriamo dentro la vicenda tedesca. 24 mattino. 349-238-6666 per le vostre chiamate. Qui Luca Telese e Alberto Castelvecchi che mi accompagna in questo viaggio stamattina. C'è l'indagine dei commissari sulle cattedre truccate, ma c'è l'indagine sul futuro dell'Europa. Allora cominciamo con il primo scenario, quello che ci illustra Repubblica, Andrea Bonanni, che coglie il nodo per cui siamo partiti dal terremoto sull'euro, il nodo del futuro governo che riguarda noi. Allora, ecco qui. Pur essendo entrambi formalmente europeisti, scrive Bonanni su Repubblica, i due partiti che entreranno nel governo, i liberali e i verdi, hanno infatti visione dell'Europa diametralmente opposta. I liberali ne hanno una concezione elitaria ed egoista, vedono l'Unione Europea come una comunità di paesi virtuosi che non condivide né oneri né rischi, ma anzi esclude e punisce chi non riesce a tenere il passo con la testa del convoglio. Non solo sono agli antipodi dell'idea italiana d'Europa, ma anche di quella francese che Macron si appresta a illustrare al mondo. I Verdi, al contrario, fin dai tempi di Joschka Fischer, sono gli unici tedeschi che hanno maturato una visione solidale e federalista dell'Europa. Metterli d'accordo pare impossibile. Ecco perché sull'altra pagina Tonia Mastrobuoni il dilemma della Merkel prende tanto tempo e aspetta i ripensamenti dell'SPD. Cioè, se si va verso la coalizione Giamaica ci sarà un conflitto su chi comanda e quale Europa realizzare. Sulla Stampa, Berlino, eletti xenofobi e negazionisti. Ve lo dicevo prima, e tutto il focus del quotidiano sabaudo è sul lato oscuro dell'AfD, della nuova formazione che ha spopolato col suo 13% e che diventa l'ago della bilancia, il cuore dell'opposizione alla Merkel. Una legione di xenofobi e negazionisti, così viene sconvolto il Bundestag, dietro il volto e le idee rassicuranti di Alice Weidel, la pattuglia dei duri e puri dell'Est, il leader Gauland accende la polemica. Israele non è un nostro interesse nazionale. Sono 94 parlamentari, ci informa Francesca Sforza, l'inviata a Berlino, e 7 milioni i voti persi dalla coalizione della Merkel. Alberto, vuoi dire una cosa su questo? Ah sì, questa leadership dell'AfD ha mandato praticamente in pensione Bernd Lucke, che era il fondatore, e anche Frauke Petri, perché è troppo moderata, è stata relegata al ruolo di presidente onoraria. E abbiamo Alice Weidel, che è questo personaggio assolutamente inconsueto anche per una scenera di destra. Lei è lesbica e lo dice con orgoglio, convive con una donna srilanchese, con una regista, Sarah Bossart, srilanchese, quindi con una persona di colore. Hanno due figli adottivi. L'altro, Alexander Gauland, hanno anche la badante. Hanno anche una badante, che è una richiedente asilo. C'è stata infatti la polemica, dice: ma come tu hai la badante, che è una richiedente asilo, e la paghi pure al nero. Ma Alice Weidel è interessante perché viene da Goldman Sachs, viene dalle banche d'affari. Ora, non voglio essere complottista, però comunque è una che non ha un curriculum folk, ha un curriculum di tutto rispetto. E l'altro, Alexander Gauland, viene dalla CDU, cioè è un ex collega di partito di Angela Merkel. Arrabbiato. Quindi questo ci dovrebbe far pensare. L'altro personaggio importante ce lo racconta Paolo Valentino sul Corriere della Sera. Il carismatico Lindner, ago del patto di governo, sarà un nuovo inizio, ma la fantasia è limitata. Bene, sapete che Christian Lindner, 38 anni, guida i liberali e sono loro quelli che vogliono tagliare i rubinetti agli italiani. Sentite che cosa scrive Valentino sul Corriere della Sera a pagina 6. Se di una cosa non può essere accusato Christian Lindner è di non parlare chiaro. Domenica sera, a scrutinio ancora aperto e ormai certo di aver riportato il suo partito in forza al Bundestag, il leader liberale ha di nuovo messo i puntini sull'Europa. Un bilancio dell'Eurozona dove i soldi andranno verso la Francia per finanziare la spesa pubblica o verso l'Italia per riparare i disastri di Silvio Berlusconi mi sembra impensabile. È questa la porta chiusa e questo è il nodo. Allora, ancora Valentino, è vero che ieri mattina ha usato toni più morbidi verso Parigi, facendo gli auguri a Emmanuel Macron perché la Francia torni insieme al resto d'Europa sulla strada del successo economico. La Germania non diventerà più forte se la Francia sarà più debole, ha detto, ma dietro le amenità del momento Christian non vuole e non può permettersi deroghe alle sue promesse elettorali. Rigore, rigore, rigore. È il nuovo kingmaker della politica tedesca e lui il leader carismatico della scena pubblica federale. Ecco, vedete che bisogna entrare dentro queste storie per capire la partita complessa che si sta giocando. Ancora Repubblica sul pericolo, diciamo così, post-nazista, loro sono tornati e loro sono i demoni del passato tedesco, e c'è il ritratto di alcuni candidati eletti con Fotina, l'ex poliziotto che dice: l'olocausto un mito che si sottrae a ogni indagine storica, il capo del partito a Lipsia, le iniziali di Hitler sull'auto, pensate, HH88, e le simpatie neonaziste sui social, l'informatrice della Stasi con il lavoro Famiglia e Patria per i confini del Reich del 1937, perché torna anche questo, e poi l'ultra della Kaiserslautern, l'hooligan a processo per rissa contro i tifosi del Magonza, l'ex cristiano democratico, e poi il giudice ex dell'SPD, l'ammirazione per Breivik e la lotta contro i popoli misti. Ovviamente non sono tutto questo il partito, ma sono anime che sono dentro. L'intervista è interessante allo scrittore Timur Vermes, autore di Lui è proprio Adolf, Lui è tornato, il bestseller che raccontava il ritorno del Führer, è diventato anche un film, lo pubblica in Italia Bompiani, e è quasi stupito, dice: il mio libro su Hitler voleva far sorridere, ma molti di questi personaggi sono pericolosi. La mappa del voto la accennavamo nella prima parte con Brunelli, vincono soprattutto nella ex Repubblica della DDR e il Länder dove sono più forti, la Sassonia, pensate, l'AfD 27%, più del partito della Merkel, e poi il terzo partito è la Linke al 16%, l'SPD è solo al 10,5%. Si è rotta la narrazione. Pensa che la Fondazione Bertelsmann il 23 agosto, un mese delle elezioni, aveva pubblicato uno studio in cui diceva: gli islamici in Germania sono molto ben integrati e l'economia ne favorirà ancora l'integrazione. Questa è la narrazione ufficiale, diciamo, e la Bertelsmann è vicino gli sconti Merkel. Che Berlino non farà. Lucrezia Reichlin, oggi è una puntata speciale, bisogna capire, questo è il dovere di questa radio, crediamo la sua missione, e quindi sul Corriere della Sera Lucrezia Reichlin scrive in prima pagina: l'esito delle elezioni tedesche è una brutta notizia per l'Italia e per l'Europa, la perdita dei voti della CDU di Angela Merkel e dell'SPD di Martin Schulz, accompagnati dal rafforzamento della destra, mostra chiaramente che la Germania si ribella all'apertura nei confronti dei migranti e anche a un governo economico dell'euro in cui si preveda più condivisione del rischio fra i paesi. Il nuovo patto per l'Europa fra Macron e la Merkel, di cui si è tanto parlato nei mesi scorsi, se andrà in porto, sarà sicuramente un atto più formale che un punto di svolta. Questo è vero in particolare per la parte che riguarda la riforma del governo economico dell'euro. L'Italia, scrive Lucrezia Reichlin, un economista che conosce molto bene la Germania, deve stare attentissima a come giocare le carte in questo nuovo quadro politico. Sì, perché noi andiamo sul filo dei mesi alle elezioni, e la scorsa volta quando fece la grossa coalizione Angela Merkel ci ha messo mesi, te lo ricordi, a fare questo mega inciuccione, certo, con l'SPD. Però nella Germania di adesso metterci mesi a fare un accordo di governo richiede nervi molto saldi, cioè non è se, più la stessa Germania se di l'euro prima, trema come dice il sole per un giorno, figuriamoci per mesi. Non sono nazisti, sono i crucchi impoveriti, il titolo è molto secco, però è quello che dice Mario Giordano sulla Verità. L'ascesa da 0 a 94 seggi di AfD scatena gli allarmi sull'estremismo nero, ma i flussi mostrano che sono voti dei delusi, dei minimum jobs e sottoccupazione, tant'è che arrivano soprattutto dalla DDR, mai davvero unita al resto della Germania. Il sospiro di sollievo, scrive Giordano, si è rotto nel gargarozzo. Poveri euroentusiasti erano convinti di essere in marcia verso le magnifiche sorti e progressive dell'Unione e invece si trovano con un'angela zoppata e una bomba pronta a esplodere sotto Bruxelles. La nuova stagione d'oro dell'Unione Europea è durata l'espace da Macron. Poi sono rispuntati i fantasmi. Ma come? Ancora i populisti, le destre, gli antisistema? Come è possibile che siano cresciuti così tanto? Non li avevamo siamo sconfitti. Questo dice Mario Giordano, e poi fa l'analisi che dicevamo, raccontando molto bene che la precarizzazione del mercato del lavoro tedesco è secondo lui uno dei motivi. Un'analisi simile, in questo si uniscono i giornali di destra, a quello che dice Libero, con un fondo affidato a Gianluigi Paragone. Se vota destra, qui l'aspetto polemico sulle grida di allarme, allora il popolo va rieducato. A lavar la testa agli asini si perde tempo e sapone, me lo dice sempre mia nonna. A lavar la testa ai presuntuosi invece si perde soprattutto la pazienza. In televisione i presuntuosi e i finti saggi sono in servizio permanente, poi arriva il momento delle elezioni e patatrac, scrive Paragone. Di fronte al risultato che non si condivide si gridano gli anatemi. E questa è la tesi, e ovviamente ci dobbiamo fermare ancora un attimo, torniamo subito dopo le strade. Mattino. E siamo di nuovo qui a parlare di Germania, di quello che sta accadendo, di un movimento che interessa molto anche noi, innescato dalla vittoria elettorale. Allora, subito sulla stampa le ripercussioni italiane affidate a un'intervista a Tremonti. Italia attenta, il tempo delle cicale sta per finire. Giulio Tremonti, intervistato da Fabio Martini, non ci faranno nessuno sconto. E quello è il punto. Perché la testa che dicevi tu prima degli asini, i tedeschi la vogliono lavare a noi. Lo sai cosa dice Tobias Spiller, che non è un estremista, è il corrispondente dall'Italia della Frankfurter Allgemeine? Ha detto l'altro giorno in televisione, ero presente al programma: guardate che se è nata la AfD, la destra tedesca, è colpa anche di voi italiani, che ne siete i cofondatori morali, perché è il risentimento anti-euro. Siccome voi sull'euro avete fatto i furbetti, la destra tedesca si è arrabbiata. Cioè siamo noi colpevoli del disavanzo di deficit che ha provocato il malcontento anti-euro in Germania. Risolleviamoci con Goethe, citato da Tremonti: pensare è facile, agire è difficile, mettere in pratica i propri pensieri è la cosa più complicata del mondo. E sostiene Tremonti, intervistato da Fabio Martini sulla stampa: credo che la Merkel potrebbe tornare a una politica che identifichi i debitori come soggetti che devono pagare, e quindi è possibile che abbia fine la stagione delle cicale e che le condizioni finanziarie per l'Italia si inaspriscano. Allora, gli echi sulla politica italiana cominciano con Salvini sul Corriere della Sera, un'intervista in cui saluta la vittoria della AfD e ovviamente la legge in chiave italiana. Allora è importante leggere questa intervista. Salvini: tifosi e linciuci ci saranno rimasti male, ora serve chiarezza, dal voto tedesco trae questa lezione, no agli stoni improvvisati. Sta morendo la lista unica del centrodestra, semmai era stata una possibilità. Silvio Berlusconi: penso che ci sia rimasto bene per quello che hanno deciso gli elettori in Germania, è un voto che ci aiuta a fare chiarezza. Matteo Salvini, intervistato da Matteo Cremonesi: qui a Genova mi aspettano l'anno prossimo, quando saremo al governo. Mi hanno spiegato che la famosa tassa sulle barche ha portato un gettito di 25 milioni di euro, ma ha penalizzato il mercato per 800 milioni. Anche i ricchi piangono, sa. Scusi, che c'entra con la Germania? Cosa c'entra? Ci ricollega con la Germania. L'AfD ha preso tanto perché la gente, anche dove sembrava stare meglio, è stufa. Consiglio a tutti un giro sul blog del professor Alberto Bagnai. Lui ha scritto in anticipo come e soprattutto perché quel partito avrebbe vinto. Anche in Germania ci sono mini jobs da 400 euro al mese che dopo 30 anni danno diritto, pensate, a una pensione da 120 euro. Vi sembra strano che qualcuno dica non mi va bene? E questo era Salvini, un'intervista lunga e interessante. Ma sempre su Corriere c'è anche la nuova vita di Battista, raccontata in 6 foto e un corsivo delizioso da Antonella Baccaro. E la chiave è il leader papà in congedo parentale. Ci sono le foto di Battista sotto il ponte di Venezia con la compagna Sara e gli tocca la pancia, che la carezza mentre sono al mare con gli occhiali da sole, ad Agrigento e si mette in posa per lei davanti alla Valle dei Templi, e poi la mano della famiglia di Battista, le due mani grandi e la manina del bambino. Ma non è che Di Battista ha fatto la cosa giusta tenendosi indietro in questo momento? Beh, in questo momento non gli conviene entrare in rotta di collisione con il neo eletto e il neo designato, però però è uscito in qualche modo un toto ministri, in qualche modo affidabile perché viene dall'interno del movimento, per cui Di Battista potrebbe essere, in caso di governo 5 Stelle, niente poco di meno che il sostituto di Minniti, cioè del ministro degli interni. Invece Roberto Fico, anti-dimaista, potrebbe fare il ministro delle comunicazioni. Queste sono un po'... Per cui è un ritiro, diciamo, sul bagnasciuga, al mare, eccetera, eccetera, ma non pensate che Di Battista voglia farsi da parte, anche perché Di Battista è l'unico, insieme a Grillo, a poter tenere presente, poter tenere uniti quello che ormai non è più il Movimento 5 Stelle, sono i Movimenti 5 Stelle. Allora, Di Maio, il leader di questo movimento, Di Maio, vedete che parte anche lui dalla Germania, regole e trattati, se l'Unione Europea non ci ascolta, scatterà il si salvi chi può. È un Di Maio molto tonico, altro che moderato, un po' bollito, che qualcuno dipingeva, intervista di Daniel Verdù sulla Repubblica. Luigi Di Maio, lei ora è anche il nuovo leader politico del Movimento 5 Stelle, cosa che ha sollevato critiche in alcuni settori il suo partito, che riduce l'influenza di Grillo. Che cosa farà il fondatore di questo, da questo momento in poi? La sua posizione, quella di Grillo, sarà di garante delle regole e del movimento. La mia posizione non servirà a cambiare il movimento, ma il paese. È chiaro che il mio ruolo sarà quello di presentare le liste e un programma e di portare avanti la linea del movimento, e questa è la cosa fondamentale che si associa ai candidati. Il passaggio decisivo forse è quello sui poteri forti. L'establishment, dice Di Maio, intervistato da Repubblica, ha perso molto potere in Italia. Oggi ci sono delle grandi lobby che condizionano la vita dei partiti, ma credo nel primato della politica. Parleremo con tutti, rispettando la diversità, ma con la consapevolezza che è la politica a decidere. Pensi all'influenza che oggi la lobby e le banche in Italia, che ha già dato miliardi di euro per i salvataggi senza chiedere nulla in cambio. Queste banche devono essere nazionalizzate queste banche devono essere nazionalizzate, erano tutti soldi dei contribuenti. Questo è un modello di Stato che non è liberale, comunista o socialista, è solo inginocchiato davanti all'establishment. Quindi vedete che Di Maio, che sembrava il più moderato, già parla una lingua d'assalto subito dopo l'eco del voto tedesco. È lo stesso establishment bancario delle grandi lobby a cui lui è andato in qualche modo a inginocchiarsi a Cernobbio, cioè lui è andato al meeting di Cernobbio e dobbiamo farci conoscere. Da un lato li attacca sui giornali, dall'altro li compiace nei meeting. Questo ha fatto venire molti mal di pancia al Movimento 5 Stelle. Money, i soldi. Questa è una notizia molto importante per noi, per il sistema Paese Italia, in quella lotta che si era aperta con la Francia. Leggo dal Sole 24 Ore, dal Sole 24 Ore, aperture da Parigi. Raoul Deforsade ci racconta che Fincantieri ha trovato un accordo, il governo di Parigi, un accordo di massima con quello italiano, un accordo su STX, la compagnia che non si voleva cedere. E adesso Francia e Italia potrebbero raggiungere un patto. Fincantieri potrebbe prendere la maggioranza di STX France, lo affermano fonti dell'Eliseo. Siamo ragionalmente ottimisti, dicono, in merito al fatto che ci sarà un accordo che converrà le due parti e che sarà presentato dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier italiano Paolo Gentiloni al vertice italo-francese di domani a Lyon. La notizia è che, anche se è informalmente detta, e che verrebbe consentito all'Italia di prendere la maggioranza di questa società. Vi ricordate che i francesi avevano fatto barrage, come si dice, e si opponevano alla possibilità che l'Italia conquistasse la maggioranza. E l'altra cosa importante che segnalo dal Sole, a pagina 34 e 35, Italia chiama Europa sul mercato unico dell'energia. Sissi Bellomo, Celestina Dominelli e Jacopo Giliberto hanno scritto un lungo dossier sul tema dell'energia, cruciale, il costo dell'energia, il mercato unico dell'energia, cruciale per il nostro paese. E siamo arrivati alla raffica finale, sono solo poche le notizie che potrò leggere oggi, però SMS ad Amatrice. È grande la polemica su che cosa si è fatto con i soldi delle donazioni. Libero, sentite che cosa dice Bekis: i soldi degli SMS anche a una scuola non terremotata. Ricostruito un istituto statale a Collevecchio, non è nella zona calda del sisma e aveva già ricevuto finanziamenti. Quindi la polemica non finisce. E non solo, ma addirittura finanziamenti per una pista ciclabile per la grotta sudatoria di un impianto termale. E giustamente a quel punto il sindaco di Amatrice dice: ho 500.000 tonnellate di macerie da rimuovere dalle strade e voi fate le terme. Cioè è una questione di destinazione e di priorità. Assaggiatori d'acqua sulla stampa sono quelli che noi, Torino, il Piemonte, offre alla Cina. È una nuova professione molto importante di questi tempi molto confusi. Cavani, 1 milione per non tirare i rigori. Fabrizio D'Esposito sulla prima pagina del Fatto. Pensate, gli volevano dare un indennizzo per cedere il posto a Neymar. Il grande campione ha detto no, li ti do io, e ha rifiutato il milione. Ci sentiamo fra poco con i gatti, grazie.